Benvenuti su Rigonia. Silence. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti. Questa è Rigonia, 17.05, 15 maggio 2024, episodio 22 di una seconda stagione che stiamo rimettendo in carreggiata dopo mesi di silenzio. Ho tante parole in testa oggi, Ho tantissime parole in testa e ho il microfono davvero basso, quindi via via via, su, eccoci, eccoci qui, Rigonia, episodio 22 della seconda stagione, 15 maggio 2024, ore 17:06. Ho tante parole in testa, comincerò da questo. Ho riascoltato la prima puntata di Rigonia, almeno uno stralcio. È una puntata molto lunga, forse un po' noiosa. L'ho riascoltata perché, appunto, come dicevo qualche episodio fa, sto cercando di scrivere un racconto di Radio Antidoto, non troppo lungo, della sua storia, e volevo partire dalla mia esperienza diretta. Avevo un ricordo di questa trasmissione e poi riascoltando mi sono reso conto che gli eventi erano un po' differenti. Quando ho iniziato a Rigonia, ormai nel 2020, eravamo chiusi in casa, c'era il lockdown, avevo parlato di una crisi, di una lunga crisi. E una lunga crisi che, come dire, è finita sotto traccia poi, quando la trasmissione è decollata e sono entrato in un contesto, in un insieme di esperienze che me l'hanno fatto un po' mettere da parte, però poi è tornata ed è esplosa e ho deciso di prenderla di petto, ed è questa la ragione per cui sono qui e per cui trasmetto. Per cui la trasmissione di oggi alle 5 del pomeriggio, mentre voi naturalmente chi ascolta adesso, chi ascolterà in podcast, tu caro ascoltatore starai un po' pensando ai fatti tuoi e magari non avrai voglia di sbattere contro questi temi anche un po' faticosi, molto faticosi. Ho deciso che Rigonia diventerà la mia testa di ponte, la mia lancia, mentre, come dire, mi butto a capofitto su un tema che ho incrociato diverse volte durante questi mesi e che è apparso sempre più urgente, passo dopo passo. Questo tema è la guarigione, e la guarigione emotiva per l'esattezza. E sto parlando di emozioni già da qualche puntata, continuerò a farlo. E le mie parole, queste parole che pronuncio, saranno, o almeno io mi sforzerò perché siano, tra le più importanti che abbia mai pronunciato. Poi eventualmente me ne dimenticherò, perché così è, nel senso, la vita ha bisogno di pulire quello che è stato sporcato per poter rifare tutto da capo di nuovo. Tuttavia, appunto, come dicevo, questo adesso diventa uno strumento dove io deposito un sapere e dove traccio le linee di un'esperienza che è iniziata già da qualche tempo, ma che adesso ha raggiunto il suo culmine, perché di fatto ho navigato in acque molto molto burrascose e in maniera molto confusa, e adesso invece le acque sono ancora burrascose, ma io non sono più tanto confuso, anzi mi sento parecchio acuto, parecchio affilato, e voglio usare questa affilatura per fare una cosa che non ho mai fatto così, perché sono diventato un uomo consapevole dei propri mezzi e proseguirò questo ragionamento dopo una canzone, perché adesso mi sembra di aver parlato tanto. È una canzone potente. Oggi la selezione musicale è molto molto molto molto randomica, però c'è dentro della bella roba. Non ti ricordi di che saliva il poeta nigeriano, un eroe dei nostri tempi. Non ti ricordi di che saliva, perché troppo amato l'hanno ammazzato davanti a tutti. Bugiardi dentro, fuori assassini. elimina ogni forma di giudizio sulle emozioni che provi. Non sentirti stupido o stupida perché reagisci con rabbia alla minima ingiustizia, o ti spaventi se c'è un'ingiustizia, o sei triste, provi dolore per un'ingiustizia. Elimina il giudizio che dice che non dovresti provare quell'emozione, che sei strano, strana perché reagisci così, che non vai bene perché reagisci così. Elimina ogni forma di giudizio e datti il permesso di ascoltare, di sentire, di vivere quell'emozione. Impariamo proprio a darci il permesso, a dire: mi do il permesso di ascoltare quell'emozione, quelle emozioni che provo dentro di me quando qualcuno tocca la mia ferita, o in questo caso quando vivo un'ingiustizia, quando vivo un tradimento. Ascolto le mie emozioni senza dire che non vanno bene o che non sono io che non vado bene. Rigonia. Ho fatto un sogno. Qualche settimana fa, 10 giorni fa, 2 settimane fa, e non dormivo, stavo praticando meditazione, e tra le altre cose, curiosamente, questa immagine, questo sogno a occhi aperti, o a occhi chiusi, ma comunque sogno da sveglio, l'ho avuto la prima seduta di meditazione che facevo dopo un lunghissimo tempo, perché la meditazione è una di quelle cose, oltre alla radio, che ho lasciato per strada quando ho pensato che la mia vita stesse cambiando, e stava cambiando, ma avevo frainteso la direzione. E in questo sogno io notavo, e l'ho raccontato già altre volte ad altre persone, e penso che lo racconterò anche nella newsletter, perché è un sogno davvero molto importante. Nuotavo in un mare molto mosso. Dire nuotare è un'espressione un po' forte, nel senso che la verità è che più impegnavo le mie forze nel nuotare, più queste onde, questi cavalloni, un mare aperto, profondissimo, mi sbattevano di qua e di là. Io nuotando sono attratto da una luce. È notte. E un dettaglio importante del sogno è che è in terza persona, non è in prima persona. E vedo appunto una luce in lontananza, nell'oscurità, nella nebbia. Il mio primo istinto è di nuotare verso questa luce. E tanto più mi applico e mi impegno per raggiungere la luce, tanto più il mare decide di spostarmi, farmi cambiare direzione, sbattermi a destra e a sinistra con violenza, facendomi bere acqua, facendomi finire con la testa sotto. A un certo punto, durante questo sforzo molto faticoso, io alzo la testa e, guardando la luce, provo un sentimento strano, un sentimento che mi mette molto a disagio. Come se quella luce fosse, indicasse un luogo non sicuro, come se fosse il faro di una prigione, come se fosse l'illuminazione di un luogo comunque pericoloso ed occludente. E in quel momento ho un'illuminazione, o almeno prendo una decisione. Capisco che la luce non è il luogo che devo raggiungere, anzi, il mare è lì proprio per evitare che io la raggiunga. E quindi, in questo sogno d'occhi aperti, decido che sarà il mare, saranno le onde a stabilire quale sarà il mio approdo, e il mio unico impegno sarà quello di mantenermi a galla. Insomma, man mano che vengo sbattuto di qua e di là, io farò del mio meglio per restare con la testa sopra l'acqua. E applicato al contesto della radio, diciamo, di questo episodio, il mare sono un po' le parole, perché ne ho tante in testa. E sebbene io abbia detto appunto che mi sento molto acuto in questo momento, sono anche in esplorazione di questo mare enorme e molto violento, ma allo stesso tempo in realtà benefico, gentile, un mare che appunto mi sta aiutando a trovare effettivamente il mio prossimo approdo. Per questa ragione ho voluto iniziare dal sogno, da raccontare questo sogno, rispetto al continuare il discorso, perché il mio primo istinto è stato quello di raccontare questa cosa. Quindi questa trasmissione, questa puntata che vuole parlare principalmente di guarigione, si muoverà così, con delle macchie impressionistiche di riflessione. E un'altra riflessione importante che volevo fare è più che altro un messaggio di scuse, nel senso che scuse principalmente verso Asco, che è un broadcaster di Radio Antidoto, e in questo caso anche verso Esther Mugambi, che è un'altra broadcaster di cui vi consiglio caldamente un episodio dedicato alle mani che trovate su SoundCloud, e chi ascolterà questo podcast e sarà curioso potrà chiedermi il link, oppure potrà cercarlo su Radio Antidoto o sulla chat di Radio Antidoto o sul bot di Radio Antidoto, insomma, per trovare si trova, ma è veramente un gioiello. E, la puntata credo si chiami How to be Introverts, oppure in generale il podcast. Mi ha molto affascinato la ricchezza e la precisione dei suoni, è veramente un lavoro eccezionale. Tornando a noi, mi scuso con queste persone perché, come dire, a un certo punto dovrò decidermi a trasmettere anche un pochettino in lingua inglese. Mi farebbe bene perché sto seguendo un corso di lingua inglese, di inglese parlato. Oggi non sono andato a lezione, ho bigiato perché avevo bisogno di riposare, e devo dire che è stata la scelta corretta. Ma in questo momento, come dire, sono le parole ad avere la precedenza. Io ho bisogno di usare la mia lingua madre per esprimermi, per farmi capire. L'altra cosa che volevo dire, o almeno sto cercando una terza cosa da dire prima di mandare il prossimo pezzo. Beh, posso dire che il brano che avete ascoltato, il recitato che avete ascoltato a inizio puntata, è tratto dal film Dune, ed è la famosa preghiera, diciamo, il famoso mantra riguardo alla paura, cioè la paura è la piccola morte che porta all'annichilimento della mente, e potete trovarla online in tutte le salse. È un concetto favoloso, è una delle tante perle che Dune regala. E io Dune lo sto rileggendo e ho trovato almeno un'altra frase che vorrei leggervi, ma vediamo come si sviluppa la puntata. La cosa che mi affascina molto è che proprio prima di andare in onda stavo leggendo un capitolo, ed è quello in cui Paul Atreides e sua madre stanno ancora sfuggendo dalla caccia degli Harkonnen dopo l'attacco su Arrakis, sul pianeta Dune, e come sfuggono da questa caccia, infilandosi dentro una tempesta di sabbia che nel mondo di Dune è notoriamente distruttiva, pericolosissima, fatale, e però attraversando questa tempesta loro giungono in salvo. E quali sono le manovre che Paul Atreides, che guida il velivolo che si chiama Ornitottero, compie per uscire da questa tempesta? Si lascia sbattere qua e là, ed è molto affascinante appunto il fatto che io volessi andare in onda con una puntata sulla guarigione, abbia avuto l'esigenza di raccontarmi il mio sogno e poco prima abbia letto questo passaggio importante, cioè la via di fuga attraverso la tempesta. E detto questo, vi metto un'altra canzone, è un classicone, è un po' triste, era tra le cose scaricabili al volo su Spotify, ho sempre qualche riserva nel metterla in onda, rimane una bellissima canzone, però è sempre un ascolto impegnativo, nonostante sia una canzone pop. Si tratta di Creep dei Radiohead. You in the eye. just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. We had multiple gunshot wounds to these patients, extremity and some abdominal, and that's all I can really say in terms of being specific about what we saw. I actually live here in this community. My wife was born and raised here, and that's what brought us back down here in the first place. And many of these patients are both our patients selectively and our practices outside of the emergency department, as well as friends and friends of family within the community. And emotionally, what's that like? It's very difficult. Yes, sir. Patients, depending on what the wounds are, that will predict the recovery. So it's impossible to say on a generalized basis. Depending on what they have, that will tell how they do from the standpoint of their anatomy and the physiology. From a psychologic standpoint, none of us up here obviously are counselors of that sort, but in general, the wounds that stick with trauma patients the longest are the psychological wounds, and I'm sure, like the town and everything else, folks will have to deal with that for some time now. Torniamo in onda, 15 maggio 2024. Non ho la più pallida idea di che cosa ho appena trasmesso. Si parlava di ferite, ma di ferite reali. E il titolo era Emotional Healing Will Take Long Time. E diciamo che questo vale, come dire, per la. Anche per quello che è il trauma legato a a una ferita reale. Come spesso capita quando io inizio una trasmissione con un'idea, con qualcosa da dire, la trasmissione vola. Siamo già a mezz'ora, siamo già al giro di boa. E a differenza di una trasmissione come la scorsa, che non proprio la scorsa, la penultima, nella quale i temi si sono sbloccati dalla seconda metà, e quindi la prima metà è stata piuttosto lenta e faticosa. Invece questa volta è difficile contenere tutto, davvero. In realtà è ottimo, perché vuol dire che trasmetterò ancora. Sto mantenendo il proposito di trasmettere una volta a settimana, anche se ho cominciato da poco, però insomma sono usciti 3 episodi in circa 10 giorni, quindi sto mantenendo il ritmo. Mi serve questa radio per depositare la mia esperienza, e mi serve questa radio per dire ad alta voce le cose che adesso sono importanti. Mentre ascoltavo la musica ho pensato a 2 cose che devo dire. La prima cosa riguarda il senso di missione, cioè questa è la mia missione adesso, e sono molto convinto di quello che sto facendo, e devo dire abbraccio il fatto che possa essere una cosa solitaria. Cioè io questo podcast ho già un paio di persone a cui vorrei farlo ascoltare, ci sono degli ascoltatori abbastanza fedeli, forse la metterò online, la manderò tramite newsletter, quasi quasi sì, ci starebbe. Però il punto è che questa cosa che sto facendo la sto facendo per me, ed è da un po' che non facevo una cosa per me stesso in maniera così radicale, e questo è anche il motivo per cui sono così deciso, sono così determinato in quello che sto facendo, a prescindere dalla percezione che ho attorno a quello che sto dicendo. E in particolare sento, appunto parlando di missione, che questo sia un periodo in cui vedo le altre persone molto investite su discorsi di tipo politico soprattutto, che sono necessari, sono importanti, sono bellissimi. Stanno succedendo cose terribili anche a Torino. La scorsa settimana al Giro d'Italia hanno arrestato, detenuto, cioè non ho idea di che fine abbia fatto quella persona, una persona che aveva una bandiera della Palestina sulle spalle. E certo, questi temi qua, se li trattassi, avrei un sacco di gente che mi ascolta. Io invece penso che questa roba che sto facendo sia molto importante, e sia in qualche modo anche il senso di tutto quello che ho fatto prima. È un'esperienza che risale alla mia adolescenza, praticamente. C'è un lungo filo che mi collega all'adolescenza, e in realtà anche prima, ma prima c'era meno intenzionalità, era più qualcosa che cominciavo a vedere sorgere dentro di me. E ne parlavo con un amico, ne parlerò anche nella newsletter. Sto facendo conoscenza con un demone interiore, e ho sempre saputo che era lì, e a un certo punto gli avrei anche dato le chiavi della mia vita, mentre intanto mi sta venendo un crampo al piede esagerato, non so perché, e forse per la prima volta questo demone lo posso guardare negli occhi, o quantomeno posso farmelo amico. È il demone che mi ha fatto fare mi ha fatto suonare, è il demone che mi ha fatto conoscere la musica, mi ha fatto conoscere la scrittura, mi ha fatto conoscere un'emotività diversa, potente. E questo demone è anche un po' un pianeta, nel senso è anche un po' un luogo dell'anima in realtà. E io adesso mi prendo la responsabilità di abbracciare il mio demone, e prima non ne avevo la forforza, devo dire la verità. Ho passato 10 anni a strutturarmi come uomo, a mettere al sicuro le cose che sentivo di aver bisogno di mettere al sicuro, e adesso posso fare il mio lavoro vero. Ed è una cosa che mi porta appunto dietro l'adolescenza. Sin da allora la mia urgenza espressiva, creativa, è sempre stata quella del racconto della fragilità emotiva, dell'insicurezza, il racconto della ferita, ma anche il racconto appunto dei lati più oscuri di questa esperienza. ne parlerò nella newsletter lunedì mattina, sto già preparando la mail. Esiste una dimensione oscura delle persone ferite, vogliamo essere guarite e però allo stesso tempo annichiliamo le persone che vogliono stare al nostro fianco. La nostra paura, la nostra sensibilità ci rende iperprotettivi e quindi anche molto aggressivi. E quando scorgi questo lato B, diciamo, della natura di una persona sensibile, ti accorgi, come dire, che c'è una forza dentro che è un motore molto, molto potente. E però fa paura abbracciarlo, perché fondamentalmente porta con sé anche un senso forte di solitudine. E una cosa che stavo riflettendo prima di andare in onda è che, appunto, nella prima puntata di Rigonia parlavo di una crisi e adesso parlo di una crisi e ho come l'impressione che tutta la mia vita sia stata e sarà costellata di crisi, di cicli di crisi, crisi forti, crisi che mi mettono in discussione ogni volta. È un pensiero che mi stanca, è un pensiero che mi fa dire: ma chi me lo fa fare? Perché proprio io volevo essere una persona semplice che viveva distrattamente la propria vita fino alla fine dei propri giorni. E in realtà, appunto, anche questo pensiero ha un suo rovescio, e cioè quando io ho attraversato ciascuna di queste crisi ne sono sempre emerso molto molto forte. E sebbene poi le tracce materiali della mia esistenza siano sempre i racconti di queste crisi, io so che nelle esperienze di tutti i giorni ho disseminato gli spazi che ho abitato di ricordi positivi e di belle costruzioni, ecco, nel senso probabilmente queste crisi mi permettono di essere un bravo costruttore, nel senso quando ne esco ho imparato qualcosa di nuovo per rendere più forti le mie fondamenta. La seconda cosa che volevo dire è che in realtà, appunto, mi occupo di guarigione, mi occupo di entrare in questa dimensione emotiva potente, misteriosa, oscura, però in realtà la mia testa è dentro il concetto di trasformazione. Vorrei parlare di trasformazione, vorrei parlare di flusso. Sto cominciando a intravedere l'importanza per me di entrare in un regime, una specie di routine, che però è più la capacità di stare dentro un flow, dentro a uno scorrere delle cose. E non è ancora il tempo, nel senso, un'altra cosa molto bella di questo periodo è che sto realizzando che ho veramente tutto il tempo che voglio per fare questa cosa qui. E siccome io ho un carattere piuttosto, diciamo, esigente, ho delle insospettabili tendenze perfezionistiche, perché io non lo vedevo in me stesso, anzi pensavo di essere piuttosto dozzinale nelle cose, invece a quanto pare invecchiando ho deciso che se le cose devono essere fatte bene, e anche questa cosa qui la voglio fatta bene. Quindi prima parliamo della guarigione, prima parliamo dell'importanza del dolore, prima parliamo della forza che c'è dentro un viaggio come questo, e poi parliamo della trasformazione. Comunque la trasformazione è già in corso, cioè comunque queste sono già forze trasformative. Rispetto al discorso precedente del tutti parlano, un sacco di persone si stanno buttando su un certo tipo di discorso e io continuo ad affrontare questo, penso anche questo, che sia un po' il mio compito, la mia missione, diciamo, di vita, riuscire in qualche modo a raccontare la fragilità umana e la vulnerabilità. E penso che sia altrettanto necessaria che tutti i discorsi che stanno avendo luogo in questo periodo storico. Anzi, adesso che sto piano piano scoperchiando, come dire, sto aprendo questo scrigno di parole, tramite cui riesco a raccontare sempre meglio questa dimensione dell'esistenza che riguarda tutti, nessuno escluso, e ha voglia a dire, permettetemi. Man mano che percorro questa strada mi rendo conto che ci ho provato tante volte. Una volta avrei parlato di fantasia, avrei parlato di immaginazione, avrei parlato del coraggio di sognare. Sì, è vero, nel senso, la creatività, l'espressività sono fondamentali, ma stavo puntando, come dire, stavo guardando il dito e non alla luna. Perché siamo creativi? Perché siamo espressivi? Perché dobbiamo esprimere questa parte fondamentale di noi, che è il nostro dolore, è la nostra paura di vivere e tutte le emozioni devastanti che proviamo quando siamo delusi, quando siamo feriti, quando siamo tristi. Ciascuno di noi ha il proprio modo di elaborarle, però sono lì. Per quanto mi riguarda, ma perché ho scoperto di avere un carattere molto duro, molto roccioso e poco incline a, come dire, alla fluidità, alla morbidezza, all'aria, nel senso poco veniale, mettiamola così, non si possono ignorare. Cioè, di nuovo, il demone va guardato negli occhi. Ciascuno ha il proprio ed è sempre diverso, e bisogna guardarlo negli occhi con convinzione, e questo è necessario, è un atto politico, è necessario per crescere come persone e per permettersi di crescere poi altre persone, e, come dire, creare dei binari dove l'esperienza del dolore unisce, perché l'esperienza del dolore unisce più di altre esperienze, perché il benessere, come dire, si manifesta in tante forme, e a volte non siamo d'accordo su quali siano le forme del benessere, ma il dolore prima di tutto ti colpisce in una certa maniera, e poi tu, per raccontarlo, usi altre parole, e ciascuno ha le proprie. Rigonia, stagione seconda, episodio 22. Entro subito dopo il pezzo per rompere un po' questo ritmo che ho creato del brano, contributo e jingle. Cerchiamo un pochettino di scuotere le gabbie. Però in realtà voglio mettere un audio che ho pescato su YouTube, ovviamente sempre tutto alla cieca, anche nello spirito del farsi in qualche modo guidare dalle sinergie e dall'istinto che ti spinge a scaricare una cosa invece di un'altra, aprire una pagina web invece di un'altra, insomma accettare anche il gioco del mistero. Devo dire che mi sono distratto, mi sono perso un attimo guardandomi attorno e ho perso un attimo il filo del discorso, ma non è molto importante per la verità, il discorso tornerà. Sicuramente una cosa che voglio dire è appunto, ma forse l'ho già detta, forse adesso mi ripeto, è davvero molto importante quello che sto facendo a prescindere dai suoi effetti. Se chi mi ascolterà tra tanti anni, se questa dovesse essere la traccia di me che lascio nel mondo, non si pensi che io ho passato la vita, come dire, a rincorrere queste inquietudini. Ho conosciuto tanta gente fantastica, ne sto riscoprendo dal passato che torna e illumina i miei ricordi di una luce speciale. Mi sono sposato, ho comprato casa, ho cambiato lavori, ho creato bei rapporti con i colleghi, ho fatto centinaia di puntate radio, ho inciso dischi, mi sono esibito su palchi e palchetti, alcuni anche importanti, sono stato un capitano, sono ancora un capitano, e anche se sto cambiando, sto mutando pelle, oddio. Pensavo di averla già mutata, probabilmente questa è la mia nuova pelle, probabilmente è una pelle tra una pelle e l'altra, la pelle figlio d'Apollo, il pollo. E mi sono ricordato di cosa volevo parlare, ma prima voglio mandare quest'audio, vediamo che cos'è. Making people feel safe enough to go deep and stay with the pain. Because you got to touch the pain, you know, you're not gonna, it's like, you could have the pain, awful stuff here, and then you can get them to change channels. You know, sometimes people do this in spiritual work, they just think about God and they get all happy, but it's not really changing the place in the brain that's holding all that, all those horrible pictures and scary things and distressed affect. So it's, that's what it means by meeting. It's like, you got to tap the stuff. You know, a lot of things, a lot of new therapists don't take the time it takes to really connect with the distress and to allow it. And they can't make people feel safe enough to go into it because people do not want to feel that stuff. You know, something was too awful to bear and they jumped out of it and they never really back to that spot. But that's actually the probably the definition of a false self. You know, you never came back to your real self. You're going on being moment to moment self that was born, but before it got interrupted, before it got disjointed. So getting people to go back to the place of pain, that's the place that needs the help. That's the place that keeps coming up for the person. That's what they're coming to therapy for. You know, this is the place that doesn't work. This is the trauma that didn't get integrated, that didn't get resolved. This is the place where your chest gets tight and you're anxious or you're, you know, defended. You can't be with feelings. You know, for all this, you have to go into the body very deeply because these are embodied experiences. The pain is in the body, in the nervous system. You know, being afraid of other people socially, that's in the body. That's the kind of, most anything that people come in with, there's pain somewhere that didn't get met, that didn't get resourced. People don't understand that when a trauma happens, they have to, somebody has to sit with them and make them feel safe and make them feel able to pay attention to it. Like even if a kid falls off a jungle gym and only thought he was going to die for 1 second, he's still got stuff in his body. And it takes a very active holding mom to say, let's just sit here a little with that. You know, I know you were only scared for a second, but your body probably still feel scared. So let's just sit with that. Give it a chance to regulate. And with the patient, you're asking, you're focusing them on where, you know, what feels bad. Because they have to give it attention, they have to give it time, and they won't do either if they don't feel safe and supported. Rigonia. Siamo tornati in onda, 15 maggio 2024, Rigonia, episodio 22. Voglio leggere adesso la frase di Dune, perché quello che ha detto questa signora è molto importante e mi permetterà di dire qualcos'altro, che non era quello che voglio dire, ma appunto il discorso è: facciamoci trasportare dalle onde. Tanto la frase è breve, la pronuncia Jessica Atreides, la madre di Paul Atreides, la Bene Gesserit, o Gesserit, non ho capito, però secondo me è Gesserit. La vera felicità, si accorse, era questa: la possibilità di fermarsi, sia pure per un istante. Non c'era alcuna felicità, altrimenti. È una delle ultime frasi che ho letto del libro prima di entrare in onda, ed è un pensiero che oggi coltivo molto, perché mi sento stanco fisicamente, molto logorato. Mi rendo conto che quando mi fermo e sfrutto appunto il meraviglioso balcone di casa mia, non finirò mai di dirlo, cazzo che bello. Quando mi fermo lì e fumo e lascio che i pensieri mi uccidano, mi tirino su, mi carichino, poi vedo sempre la porta che mi permette di uscire da questa dimensione, se vogliamo, di difficoltà, di disagio. E poi un certo punto mi chiederà: ma qual è il tuo disagio? Bene, volevo parlare in questa puntata, ma sono passati 49 minuti e quindi ve lo risparmio. Tanto ne ho una peggio da raccontare, che raccontavo un ragazzo che ha l'età oggi che avevo io all'epoca, a 30 anni. Io compivo gli anni da solo, e in quel periodo capitava di tanto in tanto che io avevo una vasca da bagno, non avevo la doccia, mi sedessi sulla vasca da bagno e piangessi sotto l'acqua della doccia, del doccino. Ed è stato un periodo di incredibile solitudine e di incredibile malessere. E ero smarrito, ero arrabbiato, ero furibondo. C'era qualcosa che si era inceppato, cioè il flusso si era ancora una volta interrotto di netto, e attorno a me non vedevo le risorse per farlo ripartire, perché non conoscevo le risorse dentro di me. E non parlo di quel periodo con tristezza, quasi mai, non più, e neanche questa volta l'ho fatto. Questa estremità, questa situazione così radicale di sofferenza così esagerata, è stato un periodo fantastico. All'epoca ovviamente era la cosa peggiore che avessi mai vissuto prima, però da quell'incendio, da quella devastazione è nato uno splendido giardino che adesso probabilmente sto vedendo è stato di nuovo distrutto, forse semplicemente l'ho trascurato. Comunque è successo qualcosa per cui quel giardino richiede un nuovo intervento da parte mia. E appunto la cosa fantastica di quell'esperienza rispetto a questa esperienza, quella che sto vivendo adesso, è che quando io faccio quello che la voce che avete appena ascoltato dice nell'audio, cioè sto dentro al corpo, dentro le emozioni di fatica, dentro le emozioni di dolore, perché lì lei parla di pain, ritrovo sempre una forza, una lucentezza, una spazialità. È la ragione per cui sono qui adesso. La radio mi dà energia. Quando staccherò sarò da un lato svuotato ma dall'altro riempito, come se avessi scaricato qualcosa di opprimente, o comunque qualcosa che necessitava di essere buttato fuori e in cambio ne ricevessi, come dire, un qualcosa che invece mi aiuterà ad arrivare alla prossima puntata a parlarvi di nuovo di queste cose qui, con la faccia che ho adesso, con la faccia di uno che dice a voi potrà sembrare tutto triste, potrà sembrare tutto duro, potrà sembrare tutto pesante, ma è così e io lo guardo in faccia e non mi fa paura, e anzi più ci entro dentro e più vedo la forza, più vedo l'energia, più vedo la potenza, lo slancio. Adesso sono fermo perché sono stanco, sono fermo perché sono a riposo, ma e sto ricaricando le batterie e sono come un elastico. Sento questo elastico che si tira e quando verrà mollato mi sgancerà a una velocità pazzesca, e magari sarà un figlio, magari sarà un altro progetto, magari sarà un altro gruppo di persone, un'altra avventura sportiva o una band, non lo so, potrebbe essere qualunque cosa, potrebbe essere una nuova versione di me stesso, ma sarà di una potenza centuplicata, perché io a 30 anni ero come un bambino che si rialzava dopo essere caduto e imparava finalmente una buona volta a camminare. Ma adesso io so camminare, ho fatto gli scatti e ho fatto la verticale, ho provato a muovermi in tanti modi, in tante direzioni, e adesso so che cosa posso fare con me stesso, so fino a dove posso arrivare. I problemi della vita non mi spaventano più, per questo guardo i problemi dell'anima, perché i problemi della vita si prendono di petto e con pazienza, con tenacia, con intestardimento si risolvono sempre. I problemi dell'anima richiedono un atteggiamento diverso, e con questo chiudo la puntata, che è volata, non mi sono accorto neanche di averla fatta. E per chi ha ascoltato, per chi ascolterà, vi mando un grande abbraccio e sappiate che non mollerò la presa su questa cosa per niente, anzi la racconterò sempre di più, fin quando un giorno vi dirò: guardate ragazzi, la tempesta è finita, il mare si è placato e sono su una spiaggia meravigliosa e vi voglio bene. E succederà, servirà del tempo, ma succederà. Metto una canzone parecchio lunga, tra l'altro, probabilmente perché è un pezzo di videoclip davanti, troppo lunga, no, non la metto, è troppo lunga, metto questa, sì, metto questa, e poi metto la sigla, vi saluto, vi abbraccio, Rigonia, 15 maggio 2024, 17:56, stagione 2, episodio 22, una buona serata a tutti. Rigonia.